segnale che due sì quasi. Ok, e adesso cosa è? Guardalo bene. Sì, è aumentato già. Sì, segnale 6 adesso. Segnale 6, sì, buono. Sì, ok, guarda, da, mi trovano 60 watt adesso, come adesso. Cazzo, sta facendo bene. C'è un amico stava vendendo un coso, un BV 2001 di quelli tessitorizzati. Se lo vuoi, sembra di avere 250 euro, adesso non mi ricordo. Se qualcuno mi crede qualche cavuto per sbaglio già te lo faccio sapere, così a me lo glielo dai. Quello è vero, gli apparecchi ormai sono talmente vecchi che non lascia più manco di mezzi. Per quello ti conviene un quadro in banda, a un certo punto come l'ho fatto io, capito? Quello li trovi ancora in giro, capito? E c'è tutto. Un quadro in banda almeno sai con una cosa sola, senza avere 50 tipi di apparecchi diversi. L'unica cosa che c'è di bello è il tenuto, che c'è una modulazione bella, ho capito, veramente bella. Però anche gli altri, apparecchi radiomatoriali c'hanno una bella radio. Dipende dai microfoni gli adatti, il discorso è questo. Infatti è così. Sono io. Bene, vabbè. Io mi ha detto, ho tolto questo, l'ho messo a scaldare prima. Penso che l'ho piazzato. Ho messo anche il rosso. E infatti era il tuo. Speriamo che lo faccia la fine di ieri. Beh, quando gli apparecchi non si usano incominciano a difettare, adesso qualcosa anch'io di qua col tornado, ho capito, a volte accende, a volte non accende, dipende da come gli viene in mente. Gli ho riscontrato i CRC ogni tanto e gli ho visto già camminare. Adesso sto usando l'A87, a parte la battaglia, questo è già pompa, ha una ventina di watt l'uscita. Questa è quella radio vintage, quel Midland modello 78574. Esce bene, segnale 7 sì, quasi. Scaldando, è scaldando quanto sembra. Sì, lui sta sempre scaldando. Però penso che si sia già che non lo metti più perché è già scaldo da un bel po'. Perché non l'ho acceso già prima di piantare, non l'ho acceso. E allora ti volevo dire, questo è quello, il microfono è quell'MB4 che non usciva quei giorni fa. Adesso gli assistenti che sta uscendo anche bene, non so l'altro. Io non credo che sta uscendo bene, che aveva la capsula dentro sotto, per terra, lì era fino a Maddalena. Se l'ha accesa dentro lì la capsula, io l'ho avuto nel 24, l'avevo venduto 40 euro pare, l'avevo venduto e gli ho messo la capsula di isoelettrica di cosa sul telefono cellulare, ma usciva forte, però nessuna modifica dentro gli ho fatto, né come si fa per dire la modifica sull'MVP5, quella specie di bypass che fanno poppare il più, ho lasciato così come era originale. L'unica cosa che avevo cambiato è la capsula e gli ho tolto quella specie di porta capsula in metallo remota, gli ho messo il cotone dentro, capito? Sì. No, anche io qua gli ho messo il cotone adesso dentro e per non scenderci di nuovo la capsula giù, cioè, io l'ho bloccata col cotone nell'albero, nel concorso, io l'ho bloccata e se no, e alla, va bene lì, alla, quel tipo di microfono, quella delle metà 100, che funziona benissimo, quella piezo così, oppure di quei portatili della Intec che c'ha la capsula retinata in metallo, quella è una cosa avvicinante come sensibilità, c'è anche dei bezzoni, non ti fa la modulazione di cupola, te la fa chiara, capito? Sì, questo è tutto originale, questo è tutto originale, è nuovo, nuovo, dico, questo non mi ricordo neanche da chi l'avevo preso, non mi ricordo neanche. Figurati, io sto usando il microfono della Del 6 questo, vecchiotto, ma sempre andato, se li metto il salto che va, il salerta può fare molto di più, aspetta che l'aggancio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pompa questo. E prova? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova a agganciare appena. Cioè, questo metterò l'altro. Cosa hai agganciato? Lineare? No, l'ho agganciato lineare. Il microfono salerta ho messo e basta, ho staccato quello. Il del 6 ci ho messo il salerta. Sì. Già, salerta c'hai, ma le comasse? No, il CM40 special. Nero. Cappa, no, io ho le comasse. Ho già usato io, gli avevo cambiato il tema interno, quello della ripetizione, e ripetemmo, capito? L'avevo fatto 8 anni fa. Capo, questo va bene lo stesso, va bene, riesci a vedere se c'ho qualche persona a farlo funzionare qua. Prova, già sono qua solo. Sì che sto uscendo. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola. Cosa? Con la discola stavo modulando. Stavo provando a vedere se usciva la discola. Anche con il telefono, ci sono anche quei telefoni di ultima generazione, c'erano le capsule piccole lì. Un balon bel quindi. Sì, si creava un alternato. massa decreava, perché i fili contatti facevano massa sulla, sulla carcassa, ho capito. E beh certo, quando così glielo credo che fa l'udio, certo. E vabbè, allora Antonio, come mai ti hai attaccato molto a Antonio? Antonio che hai giù la gadria. Sicuramente, Antonio, allontanatoci. Sto usando quello bianco, sto usando la radio, quella bianca, quella piccolina, quella vecchia, vecchia, vecchia. Ah, ho capito, quello che mi avevi detto giorni fa, per aver iniziato di bianco, Midland, così era. Caffa, quella lì, sto usando. Va bene papà, altro che, va bene, io sto sento benissimo, per cui non ci sono problemi, la radio è bella, pulita. È fortissima, fortissima, ma con la spegne al microfono, però è abbastanza, abbastanza alta. Ma fortissima non ne fai niente, perché poi alla fine devi, se tu sei, sono 4-5 persone, quello è basso, quello è alto, uno deve stare sempre, aumenta e chiudi, abbassa e alza il volume. Infatti, sì, ciao Antonio. Infatti è così, no, ma questa va benissimo, così va bene, anche come tonalità va bene, va, perché io ti sento bene, va benissimo. Allora, tanto me. Sì, ti volevo dire, Giulio, dammi contento, guarda la discola, l'antenna, capisci? Quella che è stata da tanti anni, fa da 0 a 1300 MHz, come sta uscendo? 7 e mezzo di segnale appena, per cui basta di segnale. Il radio non è chiarissimo ancora, già si capisce bene lo stesso, però è troppo, come dire, troppo cucarati. Aspetta, guarda un po' così, che mi è dato qualche cosa, uno, due, tre. La radio si è leggermente abbassata, ma cuparella è cuparemata un po', non è proprio candidamente chiara, no, assolutamente, e il segnale è sempre quello, sempre meglio. Ah ok, va bene, aspetta, per questo faccio con l'avanzo qua, si deve avvicinare la funzione, che è a posto, aspetta che sta con questo qua. Ok, va bene, va. Avanti tra. No, io l'ascolto con un segnale di 2, il radio non si comprende. Adesso sento la mano qua, e l'avevo notato 7. Adesso ti ho sentito bene. Ok, io me ne porto che esca la una discola è lì come antenna, direi che sia. Fa da 0 a 1800 MHz, quindi va bene, per essere un'antenna, stazionale 0, però almeno posso ascoltare le bande di 40, 45, tutto, roba che quella matto qua, capito, non senti nulla. E invece con quella discola sento tutto. Risuona benissimo, perfetta. E quella della Midland, l'avevo regalata, ho preso e l'ho installata. Ho tolto la Lexi 300, Lexi 30 è arrivata a Marino stamattina e già si va a piazza lui. Ecco, sì, no, ma comunque Lexi 30, sì, è buona, però vuole molto in alto, vuole la 30, perché è più piccola della 200, molto molto più piccola, come, anche come lunghezza. Sì, io lo so, beh, io ho la X300 che è lunga al doppio di quella della X30. L'ho smontata e ce l'ho qua a casa, ce l'ho. E neanche nel piazzo, tanto c'è una direttiva, ho utilizzato quella. Una volta che faceva il vento cominciava a ballare, pesami la X300, ma è così. Gli ho tolto un po' di peso almeno dalla, capito? Quando fa il vento almeno sono più tranquillo, dopo sono i cantini, prima si girava appena il palo con la forza del vento. Già pesa intorno ai 4-5 kg con la direttiva dei 6 d'acciaio, figurati, più davanti, vado in 3, sul baro. Se non l'avevo avuto il tirante ce l'avrei vista da parte di fronte, beh, palo e tutto. Ok, sì, ho mandato, sì, anni, e fate foto, e ha fatto il sedere come la cinghia. Chiamalo, andai là di un mica, di un'altra, la spende lì. Va bene, tu cosa ma? Se ne va, è battaglia, come c'è a cunini. E lei va a cunini, mi cazzo, ma c'è a cunioni. Poi, questi video si manda sempre Graziano, mi Graziano è... Chissà se non dire a Zappa che sono buio, io non lo so come. Tutti e due mi mandano questi video così. Allora l'ha mandato anche a me, Graziano, perché stamattina mi ha mandato roba di cosa, solo che non li ho guardati ancora. Non li ho guardati perché stavo facendo cosa. Allora, adesso lo guardo a vedere, infatti stavo per scrivergli, ma non mi succede. Siete cattivi, che a quello vi manda le porcherie e siete cattivi, siete un po' castellato volete sotto. No, guardate, questo qui si è abbassato i pantaloncini, si è sdraiato su una poltrona, è una donna, non so se la voglio chi è, con un battipanne, ragazzi, sta senti colpi, a tenere, si è fatto il sedere rosso come il pomodoro, anche di più. Tu te l'hai bloccato un WhatsApp, perché per te non te lo posso mandare a vedere. Incredibile. Adesso lo mando a Roberto Quadrato. No, Graziano mi ha mandato un'altra cosa, un medico militare. Graziano mi procura tante di queste cose. Ma sai cosa me ne manda? Ui, tante volte li cancellato, tante volte. Sempre dopo li cancello. Dopo che li ho visti li cancello. Glielo credo, è stato un allevaggio, alleluia, bene, bene, vabbè, riprendi Antonio un attimino, mi passo la chiesa, non passo. Ti hanno tarato, vai, passo, fatta, fai quello che devi fare, tra, non ci sono problemi, io sono qua. Ci sei Giulio? Sì, tra, ci sono, certo. Ecco questo che è più tranquillo, te l'ho fatto scaldare adesso quello là. Ma hai cambiato perché? Sì, ho messo il gaffo. Ah ok, va bene, la voglia e già si sente la differenza là. Penso di sì, dall'altro a questo dovrebbe esserci la differenza sicuramente. Certo che c'è. Perché, aspetta, ma non è che io avrò ancora attenuato, no, non ce l'ho attenuato io. Perché mi sta arrivando nuova, mi sembra, però vabbè, di nuovo. E vabbè, l'ho appena acceso, Mi sta dando pochi batti, mi sta dando adesso. Poi già risale. Ah, è già è vero, quello deve scaldare un po', sì, è vero. Non me lo ricordavo. Sì. Chi è avanti? Chi è che sta cercando di entrare? Avanti, a dove tu sei? No, è probabile qualcuno che non riesce a uscire, lo sta provando qualcosa. Deve stare a Palermo, penso che sia andato a cambiare anche lui il baracchino, boh, non lo so. Ho pensato che è stato a brutto quel motivo lì. Gatto. E adesso sto uscendo con 10 watt, capito? Sto uscendo. Per quello che state così, ma man mano adesso aumenta. Già sta incominciando ad aumentare. Sei già a 9,5, poco fa era 9, adesso è 9,5, perciò già sta aumentando. Questo non l'ho mai toccato, questo l'ho parato a caldo e poi l'ho lasciato stare, non l'ho più toccato. Ok, sì. Certo, no, già sta aumentando, è a luglio. Vabbè, là, questo è il 440 e di questo, quando appena che lo accendi sono sempre quelli, vabbè, comunque secondo me è sempre bello lasciare qualsiasi apparecchio, secondo me anche un semplice baracchino, un normalissimo baracchino, secondo me è sempre meglio lasciarlo scaldare almeno 5-10 minuti prima di trasmettere, io l'ho preso così. Capo, sì, però diciamo che i baracchini sono tutta un'altra storia. L'altro lo lasciavo 4,40, lo lasciavo a 30 watt, lo accendevo, schiacciavo ed era sempre a freddo. Eh beh, certo, perché è così, è 440 è così, ma è così, già lo so, sì. Va bene, dai, comunque, fin quando vanno avanti, fin quando si comportano bene queste K, li segniamo, poi, quando non vanno più partenza, se li rampiamo non se ne va bene da più. Si potremmo fare, io ho provato poi a lineare, a vedere quel valvolare, a vedere se ancora andava, perché ero buono 2 anni che non lo accendevo adesso, quello lì, ripeto, ieri mi si è bruciato quello piccolino, mi si è bruciato, e adesso gli ho provato quello là, però funziona benissimo. Sì, beh, quello che è attaccato poco fa funziona benissimo, non c'è problema. Come ti sei bruciato? Perché se ti sei bruciato? Ieri, mi hai detto, così. Un errore mio. Anzi, è andata bene, si è bruciato lui. Se si brucia il capo, era un fregato. Basta, basta. Ok. Ma certo, capita. Vabbè, gli errori, purtroppo. Purtroppo gli errori sono errori, si pagano. Mamma mia, non stai comprando un accidente di quello che è. Quello è tiro. Non si capisce niente. Ciao, ciao. Ciao Tino, ma non si capiva, ma sembrato di un'altra banda. Sembrava che aveva un patato in bocca. Ma quello che io non ho capito più niente. Ho sentito solo ciao, o poi quando ha chiuso, o sta chiudendo. Sì, non c'è sì. Che fai, non puoi regolare niente? Non puoi regolare? Perché, ho capito, cosa ha detto Frank? Che cosa ha detto? Non ho capito neanche se non ero bene. No, non ho capito. Non è che c'è fuori frequenza, no? O in un altro canale? Sì, perché anche di segnale sei in basso. Ma io sono solo a terra, Ah, non sei a casa, ho capito adesso. Ok. Ah, ecco perché, mi sembrava strano. Mi sembrava, capita. Infatti è basso di segnale, bassissimo. La radio è bassissima, veramente. Riusciamo a capire. Cosa hai detto? Prova, ha detto, vuol dire? Sì, non si capisce, non si capisce. Fuori frequenza, una cosa fuori frequenza, se sembra di un altro canale, sembra. Ma nemmeno l'FM, se fosse andato l'FM avremmo capito qualcosa, no, proprio fuori molto anche, non poco, fuori molto. Che voglio vedere se riesco, aspetta che faccio, un'altra frequenza, ti sintonizzo o mentre tu parli, sì, no. Un attimino che faccio io in sintonia continua e così cerco di sintonizzare per vedere se quanto sei fuori, dai, aspetta Sì, ma prova a parlare, parla a lungo, così cerco di capire dove sei, vai. No, niente, sì, non lo so da cosa dipende, ma non ci sei. Vediamo, adesso mi rimetto in sosta, mi metto in... Ecco, io mi sono rimesso a posto. No, non sono riuscito a trovare. Sì, no, in USB, l'ho trovato in USB, è perfetto. Ule. Oi. Hola. di Marco. Oh, Marcolino, barracuda. Oh, carissimo, dopo tanto. A te ti si senti, si vede come la cometa di Halley ogni 76 anni. Ui, sai quante volte ti ho fatto verso le estreme da 8 QTC, sperando nella barracuda per se c'eri, niente, no? Ma probabilmente sarei impegnato in altro, sicuramente, dai, anche per questioni di trabacco. Quello sì, va bene, questo c'è un po' di settimane, dai, tra una cosa e l'altra, e facevo anche tanti lo stesso come ieri, oggi, là, perché è scritto un pochettino prima, domani nulla, e aggiornate, sempre così. Ogni tanto accendo, ma direi che non c'è mai nessuno, detto, poi sento un piccolo fischio e ho si è attaccato, dai, alla fine. Ma tu, tutto bene? Aia, come si suol dire, tutto bene e niente a posto, dai. Dunque si tira avanti. Mi stavo per cucinare la pasta. L'acqua c'è già, il sale c'è già, è solamente da bollire. Ci facciamo pasta con il sugo al basilico, parmigiano. Fatto il pranzo, perché devo ancora pranzare. Non usciamo da lì. Ascolta, quale stai usando? L'ultimo arrivato, per curiosità. Eia? Sì, l'ultimo arrivato, sì. Eia. È carina, sento anche un leggerissimo eco che non dà fastidio. Vedi, l'eco a me piace così, no? Tipo Colt. Quello che fa, è una cosa con una ripetizione magari un po' lenta e appena accennata. Ed è di lusso. Poi lì è regolabile, quindi è... È già una buona cosa che abbia l'eco in dotazione, quello è, che piace, insomma, io lo uso poco, la verità. No, no, di regola, è appena appena accede, così posso tranquillamente aumentarlo, no, però diciamo come uscita di radio va bene, è abbastanza limpida, sì. Sì, tu avevi lasciato Nature, il trimmer dell'M l'avevi lasciato Nature? No, dico la verità, non ho mai toccato niente, così originale. L'unica cosa che mi ha dato l'input quando l'avevo acquistato per regolare, diciamo, dall'HF a trasformarlo in 27, ecco tutto lì. Devi schiacciare due pulsanti e poi ritorna in impostazione di fabbrica, così per la M, per la 27, ecco tutto lì. No, di internamento non ho toccato nulla. Va già bene così, basta avere il mic gain massimo, mi pare il valore sia 63, adesso non mi ricordo se lì arriva a 30 o 63. Va già bene, naturalmente qualche limitazione la senti se metti degli amplificati, allora tende a non spingere. Io quando l'avevo fatta l'operazione avevo il terrore, perché il trimmer è talmente piccolo, mamma mia, che se per caso forse appena appena uno l'ha rotto, ha usato tutte le cautele, è arrivato a fondo corsa, no, non se n'è accorto, il fondo corsa non lo senti qua, va tricchi rotto, te ne immagini? Aspetta che regolo un attimino, no. Ok, no, infatti sono talmente piccoli che non ho voluto rischiare, no, con la verità non l'ho mai aperto e ho regolato solamente lì dai suoi pulsanti e niente di più, l'ho lasciato così tranquillo originale, no, ma sono contento, va benissimo. Comunque la modulazione è chiara, sì, già non è gracchiante, no, sto utilizzando il suo microfono originale. Allora, sì, diciamo, siccome io ho il clone, no, di quello, diciamo che col suo microfonino originale, sì, va, niente di che, no, certo, come dire, va bene ma potrebbe andare meglio. Per esempio, se tu gli metti questo microfono, che sarebbe Lafayette DMC507, che è un microfono normale, però ha la capsula più aperta, come dire, arrivi all'effetto presenza con questo microfono praticamente, come può essere un po' questo apparato, che è già migliore di quel suo originale. È un microfono normale, pare costi 20 euro, vabbè, più la spedizione purtroppo. Lafayette DMC507. Naturalmente lì bisogna stare attenti collegando a quell'apparato, perché su un certo pin, quattro poli hanno, su un certo pin arriva una tensione di 8 volt che serve per i canali up-down, no? quello non va saldato, bisogna lasciarlo libero. Ho capito, e poi diciamo il microfono che tu stai utilizzando è palmare, non è da tavola, come quello che ho io per dire l'MB più 4, il microfono di cito che rimane una modulazione più presente, è palmare, non è da tavolo. Palmare, palmare. Sì, ho la verità, non amo i microfoni da tavolo. Come vedi, preferisco il palmare. Poi qua non c'è posto, lo devo lasciare sul braccio del divano. Se faccio un gesto brusco mi può cadere. Una volta è caduto, per fortuna giù c'era una busta morbida. È come se fosse caduto su un cuscino. Però mi piace più il palmare, personalmente. Molti preferiscono quello da tavolo. Attenzione 10. E diciamo che è un pochettino più comodo, là, diciamo alla fine. E poi è sempre questione di data, di praticità, di gusti singoli di ogni singola persona, là, alla fine. E poi per il resto, in questi giorni, qualcuno ha registrato. È sempre tabula rasa. Entra qualcuno, magari un'oretta, mezz'oretta, quando può, però non c'è più il tanto. Avanti che chiama 10. Registrato anche questo break. Chi ha chiamato il 10 prima? Avanti? Niente. Faccio venire avanti l'ultimo break. Avanti. Ok. Ciao Marco, ciao Zanello. Caspita, già è un giorno senza sentirti. Adesso sì che sei tu. Sì, evidentemente l'altro break non ho voglia di entrare. Avanti, Antonetti. Buonasera Giulio, l'hai ben sentito? E ogni tanto, ma io accendo la verità poi quasi sempre, non sento mai a nessuno, lo lascio acceso, dopo uno o due ore lo spengo, no? Già sono sempre attivo un po' la situazione, ma ho sentito un fischio, dunque sono entrato, ho colto l'occasione, dai, alla fine. Io non abbandono mai, poi sono una cosa e l'altra, impegni, problemi qua, problemi là, e lavorare quello e quell'altro un po' ti distrugge, però meno male la sera lo accendo, però. Beh, sicuramente ho trovato i giorni sbagliati, dai, dove non c'era nessuno. Ok, Antonetti, ma tempo fa tu mi avevi detto che la sera magari potevi essere anche libero, infatti io stavo pensando anche di mandarti un messaggio al telefono, perché sì, è vero, in effetti non è che c'è tutta questa attività in frequenza, per cui, non so, alle volte non senti nessuno, anch'io delle volte rimango... Metto l'acqua a bollire, Antonetti. Qualcuno entra e poi non entra nessuno. Però diciamo che in linea di massima, se non un giorno o l'altro, stasera ci siamo sempre, almeno verso quest'ora. Anche Marco è in questo periodo un po' assente, non è più presente giornalmente come la prima. E purtroppo è così, questo molto fa. Ma alle volte siamo anche sul canale 20, non sul 23, o sul 10 o sul 23, perché sul 23 c'è il canale vintage, no? E dunque alle volte entra Marco Scorpio, entra Walter Salvucci anche, e fanno delle prove di tutte le radio antiche che hanno, e dunque siamo lì, ma questo ripeto si fa esclusivamente sul canale 20. Non costa niente comunque fatto male dal 10 al 20 e poi ti rendi conto che c'è qualcuno. Però facciamo così, guarda, tutte le volte che c'è frequenza in atto, facciamo così, io ti posso mandare un messaggio su WhatsApp se tu permetti, e così poi se credi puoi entrare, va bene? È di lusso, non c'è bisogno neanche di chiedere, guarda, sono liberissimo volentieri, fa molto piacere, sì, tanto già il numero ce l'hai, non c'è nessun problema, ma ho detto anche a Marco l'ultima volta, anche lì a Gianni Capri 2, quando ne voglia mandami un messaggio, Antonio è libero, sei, sì, sto venendo, va, prendo le attacche, ci fa una chiacchierata, no, molto volentieri, e mi fa più che piacere la verità, no, non c'è nessun problema, sono molto contento, ma almeno una chiacchieratina ci si fa volentieri. Ma però manda anche gli avanzieri lo stesso, gli accesi un po' tutti per farli, sai, per tenere un pochettino in funzione, no, già è sempre acceso tra una cosa e l'altra. Poi giustamente bisogna sempre beccare il giorno giusto, la disponibilità degli altri, ecco alla fine. Tutto lì, no, non c'è nessun problema, volentieri. Mi fa molto piacere. Avanti, comfort. Ciao Gianni, ben entrato. Allora, scusatemi che ho messo a bollire l'acqua della pasta e mi ero sentato. Antone, se ti potessi far sentire la differenza, adesso non so se funzioni su questo apparato, quello, cioè volevo usare questo apparato con quel microfono che stai usando tu, fatti sentire la differenza di timbrica, cioè con questo migliora un pochino, questo è un buon acquisto, si adatta a molti apparati, basta togliere una delle due spugnette, perché ha due spugnette molto pressate, troppo pressate, però se ne togli una diventa ottimale. Faccio entrare Gianni, ciao Gianni, vieni avanti. Buonasera, grazie, Gianni dottore. Ben sentito. Senti, c'è un break già. Tira, un po' come tutti, dai, e tu? Tutto bene? Sì, diciamo di sì, dai. È troppo lunga, sai. A parte questo break. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Avanti il break. No, una parata, sono Lubrofetta dal centro storico, buonasera a tutti. Ciao, l'amico. Ho cambiato il nome in attivo, dunque buonasera, avanti. Ciao Gianni Profeta, qui arrivi Santiago 8. La radio è 4, è buona la radio, quasi 5. Fammela risentire. Bene Meda, bene Meda, 1, 2, 3, check, check, check, check, check. Buono, buono, arrivi bene qua. Io mi avrei riconosciuto, sono Marco, il motociclista fallito, non so se ti ricordi. K. Un saluto. Qui non arriva. C'è qualcuno? No, neanche a me, neanche lo stesso. La verità, quell'altro non... In antennino. Siete io. Chi è Marco? Vai, illuminami. La sottoscala è... funzionava e funziona. Allora, sì, il profeta è già una stazione, c'ha l'antennino, un antennino interno o esterno ma piccolo, e quindi, Gianni, il profeta, non arrivi, a Ossi non arrivi, a Liponti non arrivi, ti sente però Gianni Ropirum? Gianni, vai per Gianni Ropirum, vai per Gianni, dai che faccio la pasta io, dai. Ti ascolto io e ti ascolta Marco, gli altri non ti ascoltano, comunque c'è anche il Codoro, Marco Cordo, e poi c'è, è l'unico che ti ascolta è Marco, Antonello da Ossi, avanti, vai girare. E K, no già, non lo ascoltano per niente, c'ho diversi, un pochettino di querreme da parte mia proprio, manco per idea, non proprio, non neanche sentito che stanno attraccando la verità, dunque qua Ossi, Ossilandia 0, 0 segnale, nulla di nulla, comunque c'è, provo a chiedere se mi ascolta, vedi un poco e gli mandi i miei saluti, forse che lui mi senta, ma io non lo sento per niente. Profeta, lo ascolto di Antonello di Ussi. Negativo, no. Proprio appena appena percettibile, non si, cioè, si capisce qualcosa, ma veramente molto, molto sotto. Io ho praticamente Monte Oro verso i punti, quindi mi ostacola quello. Poi figurati, sono nella parte bassa del centro storico, quindi esco a malapena. Come fa? Se non arriva lui è chiaro che avrà difficoltà anche ad ascoltare, questo è ovvio. Però adesso che mi è venuto in mente, questo ragazzo che è di Modula davanti alla stazione di Sassari è da un paio d'anni sempre nella medesima condizione. Ancora non è riuscito a piazzarsi un'antenna come si deve per farsi sentire alla grande. Qui non arriva proprio come se fosse spento. Per cui non so cosa dire. Va bene, dai. Avanti Marco. Ecco. Allora, Antonello Di Ossi, Barracuda. Due dal microfono, mi senti? Questo è il microfono che stai usando tu adesso, lo stesso che stai usando tu. Facciamo una cosa, non riprendete un istante che cambio mic, gli faccio sentire il passaggio live, lasciate bianco. Questo è il microfono che hai tu, quello originale dell'apparato. Un un attimo che metto l'altro e sentirai il passaggio in diretta. Ti ascolto bene, la verità non è male. Adesso vediamo la differenza, vai. Ecco, due dita di distanza, microfono Lafayette DMC 507, due dita di distanza dal mic. Qua vedo che la lancetta sale già di più, molto di più. E conta che, essendo omologato, l'apparecchio c'ha il trimmer della M giustamente limitato. L'hai sentita la differenza di timbrica anche? E a voglia, questa rimane, guarda, come che tu stia a fianco a me, senza microfono, faccia a faccia, sì, c'è una bella differenza, rimane molto più, come ti posso spiegare, più libera, mi capito, la tua voce, pur, come che non stai neanche usando il microfono, sì, c'è una bella differenza, sì, sì, non è male neanche la prima, questa non c'è paragone, sì, sì, io non ho capito la differenza che volevi dire. Questa rimane molto molto più naturale al 100%, sì, hai ragione, la differenza cambia non di poco, dimmi già. Tu adesso che apparato stai usando? Sto usando il CRT ESS 1009. E con che microfono? Col suo originale, col suo originale. Bella rara, bella rara. Sembra una piccata. Forse perché c'è lei, perché non mi ricordo la volta scorsa. Non riesco a seguirti, scusami, spiegami meglio. il prezzo più il costo della radio. Ah sì, 160 note, una cosa del genere. Anche che guardo, adesso non ricordo bene, comunque a 170 euro non c'ero neanche arrivato. 164 mi sembra, se ricordo bene, 164. Va bene, Gianni, riprendi? No, non vado più male per la Parigi. Andare a casa ancora. 40 watt Gianni, Gianni, 40 watt da. E poi mi sembra che ha oltre 300 canali, oltretutto. Oltre ad avere l'eco, il microfono che modula il 95% della sua emissione, a differenza di un baracchino normale che modula generalmente il 70%, il microfono originale, no? E poi anche tante altre cose. Anche banda laterale, tutto a Gianni, tutto. Quanto costa? Com'è? Se non sono discreto. Guarda, sto cercando, porca miseria, lo scontino, la scatola ce l'ho. Con 260 euro l'ho pagato, non di più. Poche parole, ce l'hai presente un Galaxy, ecco, l'unica differenza c'ha tutte le funzioni di un Galaxy, solo che c'ha A, B, C, D, E, F, però questo lavoro già direttamente in frequenze radioamatoriali, dunque non mi ricordo in quale frequenza andava, scusami, faceva questo fa, originario, dai 28 ai 30, questo fa originario, poi quando premi due pulsanti, va in tutta la 27, fa della terra. Dunque questo dovrebbe partire dai 26, anzi scusami, questo parte dai 25 fino ai 30. E poi c'è anche i comandi nel microfono, e ne ha poche di robe, regoli il bill, no, il microfono, l'eco, c'è un sacco di filtri, ne ha poca di roba, no? È abbastanza complesso. È bello. Non ce l'ho visto, ho visto le robe che stavano facendo. Sì, 160, adesso non ricordo, 64 o 69, già. Costa così. E non costa tanto, quello che ha costa tanto. Infatti, guarda che non è altro che la coppia di un superstar. In effetti è un superstar, ha lo stesso modo, le stesse cose, per cui non è che c'è molta differenza. Anzi, no. Se non nell'estetica magari, tutto lì, già. Lo so, funziona benissimo, è un'ottima radio, guarda. Non è. Come no? No, aspetta, il Superstar c'ha la scheda PT3006, componenti classici, questo è tutto SMD, è proprio un altro pianeta, è più moderno, comunque ha fatto un successo enorme perché lo stesso apparato, lo stesso nome, io ce l'ho marcato Intec, poi c'è quello Antonello, c'è RT France, mi pare che in tutto il mondo abbia roba di 12 nomi, Brasile, Corea, Nord America, Sud America, di tutto di più, si chiama, che ne so, Voyager, Aquarius, addirittura in Russia l'hanno marcato Kenwood, ti rendi conto il successo che ha avuto questo apparato? Sì, ma a parte il discorso come è stato, però gli stessi componenti, Marco, il sistema di costruzione va bene, può essere cambiato, però ha gli stessi componenti, gli stessi moduli, non è che applicati magari in un certo modo, in un altro modo, ma sono così. Anitone si chiama Anitone, A-N-Y, eccetera, eccetera. Giù però, l'anitone, hai ragione, sì, l'anitone, è vero, però quello non è targato, qui c'è scritto che è fatto in Francia, dunque l'anitone mi sa non c'è neanche garanzia, hai ragione, sì, anche l'anitone, diciamo, dovrebbe essere il gemello di questo, e poi la differenza anche è questo qua, il coperchio dentro col cavo, e te lo programmi dal computer anche, puoi mettere altre impostazioni che lui non ha, c'è il programma e te lo puoi regolare dal computer anche. Tutte le schermate così, ma non riesco a trovare le istruzioni, porca miseria, non mi ricordo dove le ho messe. Sì, perché va in 10 metri, va anche, arriva a oltre 28, arriva, per cui arriva anche in 10 metri, no, io lo conosco, sì. Avanti Gianni. Un attimo, faccio la cellulare. Ok, dopo. dopo mi dici col video che ti ho mandato se ti è piaciuto. Va bene. Ah, Marco non glielo mando a vedere, è stato una guarda cosa glielo mando a fare. Non gli mando un video, glielo guardo dopo una settimana, per cui non c'è bisogno di mandare. Avanti Marco. Ancora mettendo pasta, sai, sul fornello, e già mangi un po' così. Vabbè, questa è l'ora tua, e lui ha quell'abitudine e altro è. Che pranza a quest'ora, non cenano, pranza a quest'ora. Quello già è vero, non è un'abitudine, non tanto. Giusta, ma ormai il figlio si è abituato e dunque deve seguire quell'orario lì. No, ma la verità, ma prima di acquistare questo ho fatto diverse ricerche che ho fatto. Alla fine nel mercato adesso come adesso è l'unica cosa da acquistare, arrivato a un certo punto, è completo e non c'è bisogno di nient'altro, la verità. Sa che a lui sta andando. Tutti fate che vuoi, fai dove vuoi, tra virgolette. Siete abbastanza versatili, dai, alla fine. Conviene, confronto ad altri conviene. Ci può? Certo, sì. Non ha però il frequentimetro, mi sembra, così è altro. Attualmente il numero dei canali è lo smith, naturalmente, questo sì. Ma il frequentimetro non mi ricordo dove sei sarà. Ma il frequentimetro no, quello no. Sì, ci scrivono tutte nel display i pulsanti che hai azionato, 27075, una F, poi fa vedere giustamente quanto sto sparando io e quanto il segnale che arriva agli altri, il clari perché era abbastanza complesso, perché si porta dove ti pare ti piace, no, è abbastanza complesso, dai, alla fine. E poi ti indica anche, sì, anche le stazionarie se ne hai, vai in autoprotezione e ne ha poche di roba, qua, è abbastanza versatile, dai, va benissimo. Guarda che ce l'ha il frequentimetro, Antonè. E dove, scusa? No, devo azionarlo io qua. Adesso non ho la foto, quelle foto sono sfocate. Certo che lo fa vedere, diciamo non è un frequentimetro vero, è un indicatore di frequenza, che però non rispecchia poi la lucidità reale. Però ce l'ha. E anzi, come mai non lo vedi tu? Aspetta, cosa puoi aver toccato? Boh. Guarda, devo cercare, volevo dirti proprio il prezzo giusto, quanto l'avevo pagato, non mi trovo la... Perché l'avevo pensato lì nel libretto dell'istruzione, devo frugare un attimo, aspetta che lo cerco, porca miseria. Così ti dico il prezzo giusto, il giorno che l'avevo, ma l'avevo comprato l'anno scorso, io mi ricordo nel periodo estivo, penso 5-6 mesi fa, penso una cosa del genere, aspetta che cerco. Se l'ho fatto da qualche parte lo metto qua in tasca. Eia, oh Giulio, quello ho visto tutti i nomi, è marchiato anche Kenwood TH9000 per il mercato russo, solo per il mercato russo. Vabbè che la Kenwood ormai stava, cioè non era più Kenwood in realtà, e così come ha fatto col Baofeng V5R, l'ha marchiato Kenwood ma non era più Kenwood in realtà. Ok Marco, ma diciamo che a quelli vedi lì, quando incomincia ad avere intanto i 40 watt di potenza di uscita regolabile anche, no? Oltretutto, hanno praticamente lo stesso modulo, solo che magari ogni ditta, ogni azienda non richiede con le sue caratteristiche di carcassa. Adesso questo è mancato a Mittone, però in realtà è la stessa cosa come il Superstar 3006, 3009 soprattutto, e anche il 5005, tutti uguali, all'interno sono sicuro che sono tutti uguali, Omar. No, garantito, completamente diverso. Uno, componenti classici, belli grandi, bei trimmer, questo tutto CMD, tutto micro, è un incubo. Se si rompe qualcosa. Chi è che ha chiamato? Antonello Gianni? Sono io, volevo dirti che io ho una scena da macchina fuori attaccata alla finestra, ecco perché domani io però sono messo che punto una per Yeah. come si riporta in 27? 27 sono le frequenze, dunque c'è 60 canali per banda, c'è scritto così, 60 canali per ogni banda che poi possono essere programmabili da PC. Tante altre cose, cioè regolazione dei canali adiacenti, controllo automatico del guadagno, squelce, e cosa non c'è, assorbimento, ti dice anche quanti watt sta assorbendo durante la trasmissione, durante la ricezione, è un sacco di cose, regolazione dell'eco, della durata della modulazione che si stacca automaticamente, lo puoi regolare tu, c'è un sacco di roba, cioè, ce n'è di roba. Piena, poi da 10k, fenia, guarda, un saccato di un bel po' di robe da regolare per poi lasciarlo stare così a tuo piacimento, ecco. Poi c'è lo squelch automatico che ti cerca le frequenze, puoi cambiare dal microfono i canali, puoi mettere muto, e anche dal microfono c'è tre pulsantini che fanno diverse funzioni. L'antenino fuori o sbaglio, Gianni? Marco, l'ho sentito anch'io, se ti ha affacciato fuori l'ho sentito abbastanza bene, la verità, qui a volte è arrivato tranquillamente. Ehi, Giulio, hai visto che bello blu? Io invece l'ho preso Intec col display che tra il rosso e l'ambra, è un arancione, potrei definirlo, però cambia solo la scritta e il colore, per il resto identico. E ha avuto molto successo l'apparato, poi ne sono usciti altri, diciamo altrettanto validi, ma hanno avuto meno successo. Ma addirittura questa trasmissione adesso, addirittura anche su quel sito, pensa un po', cosa vuol dire? Vabbè, vediamo un po' se riesco a sentire questo ragazzo. Avanti, l'amico di Sassari, zona stazione, avanti. Buongiorno. Gianni il profeta, mi copi? Perché chiamava e purtroppo non riusciva a avere spazio, si sarà buriato. Vabbè, se non si fa sentire, come fai? Non è che puoi parlare e dialogare con uno che non si fa sentire, no? Non è possibile. La colpa non è la nostra, la colpa è della sua stazione che non è idonea. Per cui, avanti Franco. Ciao anche a Marco. E ciao anche a Gianni Diussi, me l'ha ascoltato dopo tanto, non so se mi ascolta lui, avanti Gianni. Antonello. Antonello volevo dire, scusa. Siano questi Santiago 4, Radio 5, dai da parte mia. No, ti ascolto forte e chiaro, buonasera e ben sentito. Questo è Gianni Doppio Room, Gianni questo qua è il Cobra, col microfono originale. E va bene, questo qua è il Cobra. Dai, fai un passaggio. 1, 2, 3, questo è il microfono digitale. Se ti ascolto benissimo, qui sta arrivando Santiago 6 Radio 5. Santiago 6 Radio 5, la parte. No, ti ascolto benissimo, la radio bella limpida, semplice e chiara, no? Va benissimo, voglia. La radio è bassa, ma la cosa è fatta un paragone, voglio avere un radio di uso, magari è sempre a parte. Non è la solita radio che c'hai tu, che usi quando usi il coso, l'altra radio. È più bassa, normale tutto, normale. Sì, già, è una normale radio di un apparecchio normale. Cioè in un canale magari dove tutti hanno un amplificato a manetta ti diranno che sei basso. No, la radio è buona quanto quella di Antonello. Cos'è qua cosa ti volevo attaccare Antonello? Provalo, vedi un po'. Sta delta, mettici Gianni, mettici in sta delta. Ma se ti fai solo da lungo, non c'è bisogno di cambiare il collegamento del microfono, ti fai uno spettatore e lo puoi usare sia in tutte le radio anche. E questa delta è straordinaria come modulazione. Ma che attacca quelli nel senso di Hai capito? Non lo so, io questo non lo so, se i collegamenti sono sempre uguali, anche con quello. Però se tu su quella radio, se ci metti in salenza, nemmeno a livello del garage, io ne sono più che convinto, o quasi almeno. Però fanno cambiare i collegamenti perché magari non vanno bene per il viaggio per l'altro baracchino che dove lo usi in salenza, ti fai uno spettone, una prolunga. Uno che attacca al baracchino e uno che attacca allo stiloppo del microfono. Chiaramente devi indovinare i collegamenti, è ovvio. E lo puoi usare come faccio io quando uso il cadetta o anche del DQ4. Posso usarlo in vari baracchini, perché? Perché ho tutti gli allunghi per ogni baracchino, per ogni tipo di baracchino. Ciò non toglie che non funzioni anche in altri baracchini, però non in tutti. Stavo dicendo ad Antonello che c'è lo stesso apparato di te. Antonello, se si chiama di presentarsi le persone che sono in compra, Allora io l'avevo già provato, adesso provo, adesso non ti voglio dire cantate già, se avevo fatto uno spettatore oppure no, aspetta che controllo, te lo dico subito, arrivo subito, aspetta che lo provo. Allora, così, siccome c'è un MVC che non sono ancora dalla stampa, nuovo, perfetto, qua ci sarebbe, da qui, basta che sto MB più 4 no, non va bene, entra già in trasmissione. Dunque avevo fatto uno spezzone, aspetta un attimo che lo cerco. Allora c'è la polvere, l'attacco delle... può essere che abbia l'attacco del corso. Può darsi di sì, adesso te lo dico subito, guarda, perché se c'è proprio questo spezzone che ho e lui, vuol dire che avevo invertito un cavo, tutto lì. Adesso provo, vediamo un po' cosa ne c'è fuori, via. Siamo. Ah, riprendete Franco, riprendi, dai. Ehi, chiappa, no, se gli fai uno spezzone lo puoi spostare come vuoi, il microfono, come te l'ha detto Giulio poco fa, gli fai gli spezzoni, e che se ce lo vuoi lo puoi usare da tutte le radio che c'hai. Sì, va bene, ma gli spezzoni li puoi fare anche da... anche piccolini, li puoi fare. E tipo 10-15 centimetri, neanche. Io ho anche troppo. Ho fatto gli spezzoni e ce li ho usato quasi a tutte le radio e a uno gli ho fatto cose e pure funzionano e sono piccoli, fai 10 centimetri, metti uno a parte uno all'altro, un pezzo a parte un pezzo all'altro e funziona alla grande. Vabbè, fatti girare, faccio una cosa, ma se posso, vabbè, sta per stare a riprende giusto. Ok. Ah, vabbè. E questo numero di telefono, questo video, tu me l'hai mandato con un numero iniziale 351, il tuo è? È il mio, Giulio, non ce l'avevi ancora? Perché ho cambiato operatore. Ah, il tuo è, ho capito. No, perché sentito non lo dice, non è nella lista. Questo utente non è nella lista, ma mi è uscito tutto, capito? Ah, il tuo, e dopo me lo registro allora. Va bene. E allora Gianni, cosa mi dici di quel video che ti ho mandato? No, niente, devo trovare lo spezzone, sicuramente l'ho messo nella scatola insieme a tutti gli altri microfoni. No, comunque avevo fatto lo spezzone per abbinare l'MB più 4, sì. E sicuramente l'ho ritirato, devo cercarlo e poi ricollegarlo. Devo fare una piccola ricerca, nel caso lo faccio domani. No, comunque, per l'MB più 4 bisogna fare lo spezzone per dire dei cavi, per trasmettere col Cobra, tutto lì. Ok. Sì, no, ma quindi è considerato che il microfono Cadenza è un ottimo microfono che va benissimo non solo nei baracchini, ma addirittura va bene anche nell'HF, va bene, per cui è un ottimo microfono, va veramente bene. Io per ogni baracchino, premesso che ci sono mai dei baracchini che va bene anche diretto, però per non sbagliare ho fatto gli spezzoni per i baracchini che appunto non accettano quel microfono con collegamento su originale. Pertanto devo dire che va benissimo su tutti i baracchini. Adesso sono da un po' di tempo che non lo sto più usando, infatti ne ho tolto anche la batteria, ma perché? Perché non sto usando più il baracchino, ecco, solo per questo. A proposito, Antonio, quanto ti arrivo di segnare? Premesso che ho un'antenna è un dipolo in verticale molto molto basso. Allora qua mi stai indicando con picchi da qua mi stai indicando così il Cobra 8-9, proprio oscilla con picchi positivi da 8 a 9 e la radio è 5. Ok Antonio, va benissimo allora. Ho un dipolo tipo canna da pesca sul terrazzo, è praticamente 6 metri più in basso di dove c'era la mantova turbo prima, che l'ho tolta la mantova turbo, non la sto più utilizzando, ma questa antenna antenna così autocostruita, perché è autocostruita, siamo già a roba di un anno e mezzo, in funzione, forse anche di più. È bello che va bene, pertanto non me ne frega niente di arrivare 9.10 o 9.20 nei posti, quando mi sentono bene in radio va più che bene, ma tu mi stai già confermando che addirittura è buono anche il segnale, perciò sono contento così. E allora continuo a lasciarla lì, poi in estate si vedrà, in estate la posso anche spostare e metterla 6 metri più in alto, dove appunto c'era una volta il montata il davanti al turbo. Va bene, mi prendi e fai girare tu, vai. Ma guarda, se tu non me l'avresti detto, me l'avrei mai immaginato, peccato adesso se ti impianto il telefono e scarico, devo metterlo a caricare, se non ti avrei fatto il video. Fa 8989 sempre, ogni parola che metti, e la radio è 5. Dunque, me l'avrei mai immaginato che tu avessi un tipo l'autocostruito, funziona veramente bene. Poi tenendo presente che io sono a Ossi, dunque bisogna vedere anche con gli amici di Sassari che segnale ti danno, per vedere se anche loro arrivi bene, sai, a volte a zona cambia, io giustamente sono più lontano di tutti gli altri, di tutti voi, per vedere i segnali che ricevono adesso gli amici di Sassari, a vedere quanto arrivi, se sei più basso confronto a prima. Beh sì, un po' più basso dappertutto, a confronto con come avevamo prima, però prima deve considerare che intanto l'antenna era piazzata nella parte più alta della casa, adesso è piazzata nella parte più bassa, e cioè praticamente in facciata, esattamente nel terrazzo dell'avanzata, con 1,20 m di tubo appena, tu immaginati dal pavimento di casa 1,20 m di tubo, tutto lì. Prima era pensata nella parte più alta della casa, considera tutta la pendenza del tetto, già che c'è un 35% di pendenza da una parte all'altra della casa, e più tutto il palo, minimo 5-6 metri di palo che c'erano prima. E il discorso è questo, che vedi bene, ma devo dire che anche questa estate, quando c'era la propagazione, mi ha dato molte soddisfazioni, perché ho parlato un po' dappertutto, ho parlato. Ah, ti volevo chiedere anche un'altra cosa, Antonio. Ma tu l'applicazione Midland la stai usando? La conosci, sì? Sei un attimo, giù che mi sta chiamando il meccanico, aspetta. Ok, dai, mi prendi Franco. Sì, ma esce bene quell'antenna, esce bene veramente. Se non lo dicevi, guarda, non è che cambia molto dall'altra che ci avevi, Giulio. No, l'altra me l'avevi addirittura 9.20 me l'avevi 9.20 con l'altra, ma è plausibile la differenza, ci mancherebbe. Non so, capisci, quando tu incominci a togliere, intanto dalle 4.1, perché adesso è nel 4.1, poi c'è anche un'altra spiegazione a riguardo del dipolo. Essendo un dipolo, ha bisogno che sia alto a una certa misura dal tetto, questo invece praticamente è il rosso del tetto, perché trattandosi di un dipolo influisce moltissimo l'altezza, perché il dipolo di solito si mette in alto, perché è molto influente il piano sottostante. Mentre invece con l'antenna, avendo già una massa, non ha importanza, può essere anche sopra il tetto l'antenna, e il segnale è ottimale anche allora, a parte il discorso che se voi l'avete più in alto, è chiaro che guadagni ancora sia in segnale di trasmissione che di ricezione, ovvio. Avanti fra, fai girare tu. Sì, vabbè, quell'altra era anche più in alto, quello già è vero, lui era, vabbè. Però in confronto, se quella la sollevi, tu arrivi come l'amanto, vai, arrivi qua. Adesso stai arrivando 9.5, prima arrivavi anche a Pechino 20, arrivavi ed era diverso. Però io penso, se tu la metti sopra alla stessa altezza, quella lì arriva allo stesso modo, arrivo. Ok, avanti Marco. Scusate che ne sto approfittando per mangiare qua. Rimango in ascolto. Quindi Giulio, quel numero è quello lì, inizia un 351, quello è il nuovo numero WhatsApp, perché l'altro numero ce l'ho su un cellulare a tasti, no? Come diciamo il numero storico, no? Per le emergenze, così. È quello che Antonello, è proprio quello identico, però stranamente Antonello non vede il frequentimetro, che poi è un indicatore di frequenza, non è un vero frequentimetro. Guarda, ce n'è uno, ne ho visto uno anche poco fa, questo Hamiltone, che vive 9,7, se vuole dire, lo stanno vendendo e c'è anche il frequentimetro, io l'ho visto poco fa, sul computerino, sul telefonino veramente, però lo stanno vendendo 90 euro, ma a vederlo così è nuovissimo, lo stanno vendendo 90 euro. Chiaramente deve essere usato, anzi è senz'altro usato, perché c'è scritto, mi sembra che hanno fatto 4 offerte e basta, è arrivato a 90 euro, ma è impeccabile. Se tu lo vedi, guarda, scrivi così, CRT 6009 SS Hamiltone, e vedrai che ti appare con il barchino lì, ma è veramente bello, c'è un frequentimetro anche, ma... Scusate, vi devo lasciare che se arriva per meccanico che mi deve guardare un pezzo per ordinarlo domani. Se ci siete vi raggiungo. D'accordo, Antonello, dai. Sì, fino alle 8, almeno fino alle 8 ci siamo, sicuramente. Perché di solito chiudiamo verso quell'ora poi, là. A dopo eventualmente. Avanti, tocco Franco. Sì, ciao Antonello, ci sentiamo più tardi, Salute. Certo, avanti Gianni. Sì, ciao Antonio, ci sentiamo dopo magari, dai. E io, Franco, come ci arrivo con questo apparato? Questo c'ha tre passi, dico di omologato. E allora, sei manuati 9,5. È più o meno come l'altro, allora. Vabbè. E a te Giulio come arrivo con questo apparato? 9,20 mi è sembrato, aspetta che do lo sbaglio, aspetta che metto anche gli occhiali, così vero e prova. Ehi, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9,20 adesso. Circa, 9,18, modulati di super di 9,20. Già va bene, dai. Ma picchi positivi oppure dito? Positivissimi già, positivissimi, problemi non ce ne sono. E io te dovrei arrivare più o meno a quella misura di stesso di segnale. Sì, sì, più o meno, vabbè, qua c'è digitale, non è che dovrei fare molto rapidamente, comunque sì. Scusate un attimo, il profeta, canale 15, se sei tu. Profeta non sarò. Ma il profeta non deve chiamare la figura che mi dà. Profeta era... delinquente. Cos'è? Mi chiamo. Ma che era una mia, no? Il profeta era... No, non è così già. Vabbè, dai, comunque. Io l'ho conosciuto già da un paio d'anni e mi ricordo che prima arrivava anche, tra l'altro, massissimo, però mi arrivava, e invece adesso non arriva proprio, già da un paio d'anni, ma è sempre nella medesima condizione, e se non si mette l'antenna non c'è niente da fare. Caro ragazzo, come ti chiami? Gianni mi sembra, Giovanni, com'è? Mettiti un'antenna come si deve e vedrai che ti sentiamo tutti, e così puoi chiacchierare con noi quanto vuoi e per tutto il tempo che vuoi. Va bene, adesso mi avrà contatto, spero di sì. Vai, ma io sto dicendo che sia lui, io sto dicendo che c'era uno che si chiamava così, ma sto dicendo che sia lui. Sta pagando. Sì, era un poeta, veniva mio paese, che aveva un titolo di strano. E quindi io ti parlo degli anni 80-90, da Pappagone. Sì, certo. Vabbè, ma io non ti ho detto, ma il profeta come cosa dovrebbe fare un po' di miracoli anche per far riuscire la radio. Il profeta chiamava a Gesù Cristo un mare o Gaira. Beh, se Marisio era pure come si chiamava? Lubriti. che ruba fa le queste dalla chiesa, vediamo a ricoprire. Sì, io le batterie santi a Ravini, si chiamano in Russia, Prava, Isha, avanti giù. Ok, vabbè, questo non è sbagliato, quindi anche Gesù ritorni a usare, fa carizzare. Se tocchiamo quel tanto lì, è poco mezzo simpatico a me, mi fa carizzare. No, la chiesa, no, non c'è niente la chiesa, io con la chiesa la difendo tantissimo, perché è un valore inestimabile, ma chi la gestisce mi vale diversamente di schifo. Se la marita è voluta imbrigliare, farà delle belle al fondo schiena, l'abbiamo imbrigliato di tutti i canti a uno, abbiamo passato 24 ore alla lì e con le a fare delle belle fra. Ripeto, io con la gente lì, lui fa calendare tutti a qualsiasi livello, senza scartare il numero uno. Però la chiesa la difendo perché è intanto è un luogo sacro, eppure allo stesso tempo è una cosa che mi piace soprattutto per il valore in se stessa che ha la chiesa, oltre al fatto della religione eccetera eccetera, ma per come loro la gestiscono, la valigia è triangolata di tutti i lati. I pedofili, di tutti i pedofili. Beh, carità, questa gentaglia, io la considero gentaglia. Guardate che mi sto sbagliando, ma per me è tutta gentaglia, perché il più bravo muore ammazzato con le budella del più cattivo, o viceversa. Ah, ci saranno anche i bravi, anche ci sono alcuni cattivi come la persona è fatta, però chi è che si sarebbe mai immaginato che un prete potesse arrivare a tanto a fare il pedofilo? I genitori prima ci affidavano, andavamo al catechismo, andavamo, posso dire, facevamo gli scout, i lupetti come ho fatto anch'io. Io ho fatto il lupetto, ho fatto lo scout, ho fatto il chierichetto, quindi nell'ambito della chiesa ci sono stato tanto. Però, grazie a Dio, mai a me mi è successo una cosa del genere. Però tanti genitori magari si fidano, sanno che è un ambiente sano, ma invece poi è più malato di darti lui. Sì, beh certo, ma guarda, anche una buona parte di quelli che la frequentano anche lì, sono gentili allo stesso, perché ti dico subito una cosa, un giorno mi ricordo, in via Santa Apollinare, io stavo passando lì, prende e passa un ragazzo con un motorino, fatto un complimento, ma un complimento anche carino, e questa ragazza che stava uscendo da scuola ha fatto guai, cimene eccetera eccetera, proprio chiare sonde, stava uscendo ancora non aveva messo il piede in strada, stava uscendo dall'uscio della porta della chiesa, poi già per dirti, no, perché non ti vai a brillare. Cosa mi va? Io mi meraviglio di questi tempi, o prima non si sentivano queste cose, o sono proprio cambiati i tempi, le persone, capito? Perché io prima mi ricordo che i primi erano proprio, io mi ricordo Turchia, sì, è vero, sì, però era molto protettivo, insegnava le cose come dovevi impararle, eccetera, eccetera, ti faceva ripetere le cose, ti interrogava, voleva le persone che ti voleva pronti alla risposta, faceva la messa alle 9, me lo ricordo bene, la messa dei bambini alle 9 ed era come un catechismo la messa. Praticamente lui diceva cosa hanno fatto, li ha posto, eccetera, eccetera, lui rispondeva, capito? Che era una bella cosa, però adesso non sono cambiati questo, sono cambiate le persone, non lo so, perché prima io nella chiesa mia perlomeno a sacco fuori ho sempre visto dei buoni insegnamenti, ho fatto anche lo scout, c'era Domolito quando lo scout, come prete si interessa a fare gli scout, e abbiamo fatto sempre per le cose, allora ci facevano fare gli scabini, gli armati, ci facevano costruire le cose. Davvero, grazie a voi fare gli amici. Anche il dottor Pica già ne ha fatto di baracchelle, già, incominciando, seminando figli, tipo quella che vedete vendeva, che vendeva in via Sappoli, che gli avevo fatto fare un figlio lui. E un'altra volta l'avevo visto io perché stavo fatto un lavoro lì all'angolo del Diabogino e sono andato in quella casa al primo piano e c'era lui con l'amante intanto, no? E sta tranquillo che dottor Figaro non è la farina di Vauzia, se dice a Sassari, stai tranquillo che così. Avanti Franco. Beh, quelle sono cose più private, ma con i ragazzi si comportava bene. Sarà pure così. Prova di arrivare a Balilogo, buon'anima, che gli ha fatto fare un figlio, gli ha fatto fare. Quello che vendeva il mangiare per i pulcini, e che vendeva anche i pulcini, gli ha fatto la verità, cosa si dice? Sì, già la conosco, la conosco, la conosceva anche mamma. Mangiare da malato. Esatto, esatto. Quello è un altro discorso, vabbè, la natura della persona non ha importanza, ma per dirti che anche lui è stato sempre un donnaiolo, sempre. Tu mi dirai, se ti parlano di chi si stava, sono d'accordo con te. Non dico che si sia dato alle ragazze, ai ragazzi o alle ragazzine, questo no. Però alle donne di una certa età già sei dato, sai, tranquillo. Sì, magari sono le madrelingue, qualcuno te lo voleva male, tante volte sono anche le madrelingue, io poco ci credo se non vedo. Ma io l'ho visto anche quando l'hanno seppellita, ero uno dei pochi che c'era dentro la chiesa perché l'ho seppellita. Te ne dico un'altra anche, te ne dico. Io il cinema Smeraldo di Sassari era roba sua, no? Era lui il proprietario. Allora, quando i gruppi della musica sassarese ne chiedevano in affitto per un giorno, per fare lo spettacolo, sai cosa voleva? Sai cosa ha pagato mio fratello una volta? 800.000 lire, Gianni, tanto ma ditemi una, un giorno, gli ha dato teatro per un giorno, per fare lo spettacolo. E lo spettacolo era in beneficenza, era, intanto è vero, la gente offriva quello che voleva offrire, l'incasso l'hanno evoluto in beneficenza, per dire una, no? E stai tranquillo che invece una mala guardia di tagliente non ce n'è Gianni, quelli hanno studiato filosofia per sfruttare la gente. Sì, ma non ricordo che era suo perché chi faceva il suo dovere gli regalava i biglietti per andare, capito? A vedere gli spettacoli, eccetera, eccetera. Allora, era cinema, teatro, Smeraldo. Appunto, te lo sto dicendo, era suo, era roba sua. Però, sei andato a un gruppo per fare il spettacolo, per poi darlo in beneficenza, lui ha voluto 800.000 lire. Che no, 800.000 lire e non mi sembrano pochi. Io posso capire che fate pagare, ma 800.000 lire lì sono mezzo di anni o gianni. Sì, già avuto sempre manie di grandezza, ho l'organo più grande della Sardegna, di picchi di spada, gli affreschi, i mosaici, eccetera, eccetera. Nel senso di che ha preso con la chiesa, io ho visto tutto dalla lazzetta, perché io facevo il chirichetto di tutti, immagina che se vedevo, li ho visti proprio facendoli, mettendoli in mosaici, ho visto la spada pitturando. Allora ti dico subito che anche lì non ha pagato un centesimo, anzi una lira, perché allora c'era la lira c'era, per fare tutto gli affreschi che ci sono in chiesa, li ha fatti Costantino Spala, e lui non ha pagato nemmeno una lira, non ha pagato, l'ha fatti tutti gratis, tutti indistintamente, e io lo so con la massima certezza. So che c'era stato una specie di critica da parte dei fedeli perché aveva fatto posare una donna nuda per fare a Eva, e c'era stata una critica perché l'aveva fatto dentro la chiesa e molti fedeli che erano ignati. Già lo so, se non mi prendi la roba male e basta, per carità, quello sì, vabbè, dai, avanti fra. Ti abbiamo annoiato? No, perché? No, niente di... Ma io dico che a quella gente, a parte tutto quello, che nella chiesa non emettono soldi loro, che tutto il soldo delle donazioni, queste cose qua, e poi prendono anche, mi sembra che gli danno un tocco la regione, anche di là, a questa gente qua, non è così. E poi l'errore che hanno fatto in Italia è non farli sposare, perché da altre parti, tipo in Germania, sono sposati i preti. Loro sono uomini come gli altri, visto che a fare il prete è un lavoro come tutti gli altri, si dovrebbero anche sposare. Io la penso così, poi non lo so, andate giù. E appunto, ma la cosa è questo, che loro criticano le persone che non sono della Chiesa, se per, ad esempio, non so se un marito o una moglie tradisce il suo partner, loro invece cosa fanno? Loro tradiscono con tutti. Con tutte quelle donnine, io le chiamo donnine, che vanno in chiesa e vanno sotto la sua sottoveste, perché per me è la sottoveste quella che ha addosso. Non ricordi quel frate dei cappuccini che aveva fatto, che faceva delle corna a questo signore, e lui era andato perché la moglie diceva che andava a confessarsi, però lo faceva troppo spesso. Un giorno è andato per prenderla e la trova sta facendo col prete del confessionale, e non col prete, col frate, e colui come l'ha visto se l'è scappato e si è fatto dire San Francesco, vuoi buttarmi far avanti? Vuoi buttarmi far avanti con la tela che tu ricalzati? Perché non lo sappiamo, perché da molto che in continente hanno trovato un prete affrontato con una donna, è andato il marito e l'ha massacrato, ma non già lo sappiamo, già su tutti i giornali è stato pubblicato. Questo per dire uno, ad esempio, se non prendiamo il prete che c'era lì una volta in Corso Seneta, adesso non mi ricordo come si chiamasse, ma mi sembra che si chiamasse, mi sembra, non sono sicuro, Don Ruglio, se ricordo bene. Intanto era un ubriacone e quando beveva diventava peggio di uno straccio, di quel straccio dalla quale per terra già invecchiato anche. Una volta, siccome io frequentavo là, allora praticavo lo sport, praticavo, ero giovane, ed ero lì in Corso Trinità, e siamo entrati nel circolo che c'è a fianco alla chiesa, c'era il circolo, ci sarà ancora, sicuramente c'è ancora. Questo circolo, il padrone era il prete, era di questo circolo, naturalmente c'era il gabusiere, c'era un'altra persona che lo gestiva, però era sua proprietà. Questo. E noi la sera entriamo lì a bere una lanciata, andiamo e c'era lui, ubriaco, che non poteva nemmeno parlare di quanto era ubriaco. Diceva certe parolacce, guarda già, se uno se le inventasse, questo nella peggiore specie non ci riuscirebbe a dire parolacce come diceva lui. E noi ci siamo avvicinati, perché ero io e altri corridori che frequentavamo sempre lì, di fronte a Tuvieto, dove c'era allora, se ricorderai, il fornitore della benzina lì in Corso Trinità. Ci siamo stati. Don Ruglio, mi sembra che si chiamasse Don Ruglio. Ma lei c'è un prete, dice queste parolacce. Ah, io quando sono fuori dall'altare sono un uomo come tutti gli altri. Così ci ha risposto già. Sì, ma non sta bene però a parlare in questo modo da una persona come lei. E Gianni, per dirtelo, ed era anche ammantato con una ragazza di 20 anni di sorso, e viveva su dove c'era una volta il serbatoio dell'acqua, su in alto in via Gazzaretta, in un appartamento lì vicino. Freddissimo. Avanti, riprendi. E lì ci stavano le prostitute, con le case basse. Ho capito. Sarà lo stesso prete quello che quando andavo io in chiesa ti faceva vedere il sonno, che parlava anche, ne parlava così. Ah, mamma mia, il chirichetto si trummia. E mia moglie diceva, mio mimi, il chirichetto, e discendeva la testa, si addormentava nella sedia, immaginati come parlava. Fratelli, carissimi. Aveva appoggiato questa ragazzina di ragazza, una ragazza di 20 anni là, di sotto, che non era nelle case basse che stai dicendo tu, proprio in un appartamento, in un palazzo lì, a incontrato con questa ragazza di 20 anni, e questa ragazza era di sotto, e dissero, dove è Ciù? E lì una ragazza di 20 anni o Franco. Avete parlato in due, avete parlato un po'. Ho detto che la prima è tenera. Tenera, perché se no mangia legna. Ah, sì. No, non era fatta in due, forse la televisione tua stessa. Perché avevo capito comunque. Sì, ma cosa non è finita? Perché io dico che il bastone, io lui. Un'altra volta Gianni, in mezzo a Mariano, esco dal stabilimento, allora lavoravo sotto un principale. E vado lì a San Pietro, vado. Guarda, San Pietro, la chiesa in quel mese è completamente spalancata, chi vuole entrare, no? Mi sta fermato sopra i gradini, sai, in fronte a San Pietro ci sono le gradini, 3 o 4 gradini che ci sta. E io mi sono fermato sull'ultimo gradino. A un certo momento si sento questa bomba atomica. Perché non c'era nessuno, la chiesa era completamente vuota, non c'era un'anima dentro. Si sento proprio uno di quegli scorpigi madonnali, oh già. Capita? Sì. E quando ho sentito questo rumore, allungo la testa e guardo all'interno della chiesa. E cos'era? Era il prete che era lì appoggiato al muro. E stava bombardando tutto a bombardare. Oh Gianni. Senti, no, era in chiesa. Oh, ma carità. Con quelli bisogna stare attenti, perché poi muovono la gonnella che c'hanno e ti fanno dare l'odore a te. Appunto, poi, guarda, te lo dico subito, io sono nato in una famiglia di religiosi, te lo dico subito, tranquillamente, senza nessun problema. Basta pensare che babbo ha fatto 15 anni e l'obriere, il paraio, come si dice, insomma, facciamo parte del gremio dei falegnani, no? Babbo ha preso nel senso che non è che l'ha preso lui, il candeliere, la bandiera piccola, la bandiera grande, perché la partita è quella, prima l'obriere del candeliere, l'obriere della bandiera piccola, l'obriere della bandiera grande, la bandiera grande è il massimo, si fa così, si fa la trasmissione. Mi ricordo che Babbo arriva con la bandiera grande ed è entrato in chiesa. Appena che ha salito le scale di chiesa Santa Maria, quel versetto di frate che c'era, mettila qui dietro, intanto dando il suo a un uomo grande che poteva essere il padre, il primo. E poi come si permette di dire mettila qui dietro, in quel momento stava entrando San Giuseppe, perché la bandiera era il santo, era San Giuseppe Gianni. Invece la norma qual è? Si entra in chiesa, si va avanti, davanti all'altare maggiore, si fa l'inchino, si gira a sinistra e si gira a destra, e fa l'inchino in tutti e tre altari. E lui invece mette la di dietro, come che stesse entrando un pezzo di straccio così, senza rendersi conto che in quel momento lì, sì, la bandiera era portata da Babbo e da tutto il gremio, però stava entrando San Giuseppe o Gianni, per dirti no, questa è la il concetto che hanno loro della religione, questa gente. Purtroppo sono frustrato anche loro. E poi diciamo che ci sono tanti che approfittano del fatto di essere stesso. Io ho detto che questi sono non manco, perché hanno questo modo di fare, tipo cavolo, quando con la televisione di un pastore per fare lui, per fare la doveva fare la cresima. E poi l'abbiamo tolto, l'abbiamo inserito a Sant'Agostino, perché questo prete pretendeva che ogni giorno sia i genitori sia il ragazzo dovessero andare in chiesa, quando noi lavoravamo tutti e due e non potevamo farlo. E se no non faceva fare la crisima ai ragazzi, capito? Tanto è vero che poi hanno visto queste esagerazioni anche le istituzioni del Sant'Agostino, cioè sono andate tutte le istituzioni, cioè sono andate tutti i genitori, no, non si rende conto di X, parliamo di questo, non potrei raccontare un'altra, riprendi tanto fra, non ti voglio lasciare troppo il banchetto, riprendi fra. No, io riprendo e vi lascio che mi hanno chiamato a mangiare. Ci sentiamo per le prossimine, dai, al limite domani. Ciao Gianni, ciao Giulio e Marco se c'è, se non è nostro altro canale. Sentiamo, dai, ciao, buonanotte, vorresti per me. Avanti già. Sì, ciao Fra, dai, grazie per il questo, buona serata, siamo qua, domani fate sentire. Avanti Giulio. Ok, ciao Fra, grazie per la chiacchieratina, dai, a domani ci sentiamo. Sì, sì. Ti racconto questa Gianni, allora io mi sono presentato che avevo 8 anni, una cosa del genere, 8 anni, 9 anni, prima si poteva presentare anche così il bambino, diciamo, a differenza di oggi che deve avere una certa età, credo, boh, perlomeno se non hanno cambiato di nuovo, vabbè, ha fatto questo discorso, ha fatto il catechismo, ho studiato, eccetera, eccetera, a un certo momento arriva il giorno dell'interrogazione, perché allora prima si interrogava il catechismo per vedere se ero promosso, per poter essere cremato, no? Nella chiesa di Santa Apollinare, io appartenevo allora lì, perché abitavo a Santa Lucia, appartenevo a quella chiesa lì, e c'era questo prete che si chiamava Padre Ruiu. Chiamava questo sono sicuro che si chiamasse Padre Ruiu, a differenza di quello che ti ho raccontato prima, ma anche quell'altro mi sembra che si chiamasse Ruiu. E insomma, fatto sta, faccio l'esame, mi compila il foglio, alla fine mi fa, come si chiama tuo bambino? Io, sai, un bambino, così, subito, Filippo Ruiu. Ah, no, no, no, no, io ero con mia madre, no? Ah, no, no, assolutamente no, devi cambiare padrino perché con quello tu non ti puoi cresimare. E mamma la risposta, e per quale motivo non ti puoi cresimare con quel padrino? Perché? Così è qualche delinquente. No, no, assolutamente, quello io lo conosco benissimo, quello è comunista e non può farti da padrino. Ma te ne immagini già? E non me l'ha fatto. Non me l'ha fatto io. Dopo ti continuo il discorso, ripeto. A tutti là imparano tutti, io mi ricordo non più il solo di una macchina che mi ricordava qualcuno di come avevo fatto osservazione a una ragazza che mi diceva durante la metro aveva un microfono, no? A parte deve uscire fuori e utilizzare un conto che ha dato per sta passando. Ok, allora perché non me l'ha fatto? Ti spiego subito perché. Perché? Perché lui, mio padrino lo conosceva benissimo, non bene, no, benissimo, in quanto mio padrino era il nipote di questo prete, sicché si può immaginare e sapeva che era comunista, così almeno lui ha detto, poi io questo non lo so, se effettivamente era così, però non mi ha fatto il foglio di Santa Cristina, non me l'ha dato assolutamente per me. Mamma si è arrabbiata, perché allora facciamo una cosa, vedrà che io il ragazzo lo cresimo lo stesso, dice, e lui, fin quando non cambierà il padrino, tu il ragazzo non lo cresimerai mai, davvero, vabbè, lo vedremo. Mamma fa, allora adesso facciamo una cosa, andiamo a San Sisto, andiamo, e fai l'esame lì. Io non ci sono voluto andare, assolutamente, per me la chiesa mia era Santa Polinare, a San Sisto niente da fare, non volevo andare. Allora cosa ha fatto mia madre? Al posto già lo conosci, il barbiere della Fredda, già lo conosci, no? Sì, io lo conosco, io vado dal figlio di Abbandetta per il capito, prima andavo da lui via Grazia Deletta a andare dall'altra parte. Ok, allora, al posto, premesso che a me non mi è niente, niente assolutamente, né a me né a mia famiglia, però è un figlio, cioè è stato adottato da mia nonna, è stato adottato. Lui si era cresimato una settimana prima, si era cresimato, sempre via Santa Apollinare, o dove era, comunque una settimana prima si era cresimato. Io, siccome non ci sono voluto andare nella maniera più assoluta a dare l'esame di nuovo lì a Francisco, prende mamma e prende Alfonso, vieni qua, mi deve fare un favore, mi dica di accostare, perché la chiamava così a mamma, no, di accostare la chiamava. Adesso io te ti porto in chiesa a San Sisto e tu fai l'esame, fai per il catechismo. Sì, sì, già costa, sì. Però quando il prete ti dice come ti chiami, tu non devi dire che ti chiami Azar Alfonso, no, ti chiami Setta Giulio. Va bene, siamo sta. Alfonso è stato sempre un ragazzo molto sveglio e anche intelligente. E così è stato. Porta mia madre, porta il ragazzo a San Sisto, fa l'esame e le fa il permesso il foglio per la crisima. Sono andato con un foglio fatto da Alfonso, per dirti, no? Quando ho saputo questo Don Ruglio, un padre Ruglio, accidente che come si chiama, o che si chiamasse anzi, adesso è morto 50 volte, non una volta, perché era già molto vecchio prima, eh? Ha detto, che gli ha detto a mamma, ragazzo mi hai? Detto, ah, e mamma gli ha risposto, ha visto che non c'è bisogno di studiare filosofia come avrà studiato lì per essere molto intelligenti, più furbi di lì. Fregato mi hai, se l'avessi saputo non avessi mai cremato un ragazzo con quel padino, invece mi sono cremato tutto con quel padino, hai capito Gianni? Fredissimo, è gentaglia, quella per me è gentaglia, perché loro mischiavano l'ideale politico con la religione, cosa che non c'entra niente, non c'è mai entrato niente e mai c'entrerà niente. Io me lo ricordo, che erano così. Addirittura a me Don Murillo mi ha detto, io mi volevo sposare, volevo che sono sposato a Controcuore, perché Controcuore alla mia chiesa per me era, e anche il piano era d'accordo, quando siamo sposati, voglio essere la chiesa. Beh, non mi volevo dare nulla a ossa, perché tu mi sposare lì con la chiesa, e poi per me io ho detto che fa Controcuore, dico, ma tutti mi erano Controcuore, ma non sono qua. La chiesa mi è rimasta nel cuore, la chiesa è fatta nel cuore, tutto lì, mio padre di Dio aveva fatto mettere una campana, sono il nome della grotta, della mia famiglia, eccetera, eccetera, poi io ho fatto tutta l'infanzia, ho fatto a pallacanestro, e quindi io ho portato lì e lui stava facendo il studio, poi alla fine già me l'ha dato. E guarda, non me la figlia che non si voglia sposare, da voi, quella chiesa lì era una stalla, perché me l'hai detto che non fa, ma era una stalla, quella lì mettevano i cavalli. Ok, sì, fatto il litro. Il prete di Ripugno lo conosci? Pugni, Costantino Pugni. Sì, a voglia che lo conosco. Costantino si chiamava Pani Giusti di soprannome. E se ne frequentava sempre il cuore. Di pura voglia che lo conosco, amico di Turchia. Fallo come se l'ha messo. Guarda che è un nipote da lontano di mia nonna, se vuoi immaginare, non lo conosco io. In pratica è una specie di cugino, da lontanissimo, però sempre un mio cugino è, se vogliamo. Se dici, ti dirò che anche lui è ammantato qui con una nonna che abita nella zona di Lippo. Tanto ma dici di una, no? Ma Costantino stava tanti anni con questa tipa e poi di colpo l'ha mollata e si è fatto prendere. Quindi non è a dire che lui non ha avuto donne e cose, lui ce l'aveva la ragazza ed era anche tanti anni insieme, poi ha deciso di farsi prete. Lo so, tu pensa che la madre abitava a Bialucciocevi, fino a un po' di anni fa, prima che costruisse il palazzo dove abita Costanzo Passola, per dirti, no? Costanzo Marazzero. Prima che costruisse quel palazzo, lì avevano la casa, la madre, abitava lì. Quando è diventato prete, la gente della zona, del vicinato, tutta gente morta di fame, gli ha fatto un'offerta grandissima, voglio dire, ha incassato più di 1 milione in soldi, ha incassato, solo perché era diventato prete, un'offerta che gli hanno dato. La gente della zona lì, della via Nurra, via Lucercevi, insomma tutta la zona così, hanno messo insieme più di 1 milione in offerta per Costantino. Per dirti, no, io lo conosco io, la voglia di lo conosco, per carità. Ti dirò di più, la sorella è Costantino Pugli, era in crepa con mia sorella, sì, lo conosco bene bene bene. Fani tutti di soprannome, informati. Ciao. conosco, lui frequentava lì a Sacrocuore, poi era sempre Pappa e Ciccia con Torpico, andavano da Pasqua a pigliarsi il caffè insieme, sempre. Ok, già lo so, a voi già se lo conosco. Come conosciuto era che quel prete che abitava dietro la sagrestia di Santa Polinare, che poi è prete a San Nicola, quello che c'è ancora a prete lì, presso Fongo di sì, però anche quello già, dopo, che adesso non mi ricordo come si chiama, però per dire che anche quello l'ho conosciuto bene, anzi addirittura con quello ci ho giocato, aspetta un po', con quello ci ho giocato lì, dalla piazzetta di Via Tiberia San Pietro, eccetera, perché lui abitava nella casa dove attaccato c'era il magazzino di Arcemalle e il Ferro Vecchio, quello del Ferro Vecchio, si può immaginare, dietro, si chiamava dietro il campane di Santo Bulinari, così a Santa Ricerca, che è la sagrestia, dove c'è il resto della sagrestia di Santa Bulinari. Io quella chiesa non la conosco perché non ci sono mai stato, però se nominare, però tu mi chiudo un attimino il telefono. E vabbè, chiudo io intanto, là ci sentiamo, è già tardi, sono già venuto lì. Ciao già, buona telefonata e buona cena quando la farai. Dai, è il prossimo, ciao. Ciao Giulio, buona serata.